Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Sono le 19, minuto più, minuto meno. È il momento di iniziare, è il momento di iniziare Eclettica. Giulio Caperdoni con voi, come tutte le sere, alle 19, minuto più, minuto meno, fino alle ore 20 per musica, letture e film. Questa è Eclettica. Questi sono i tre elementi di Eclettica, oltre ovviamente a voi che l'ascoltate e a voi che magari ne fate parte con le vostre parole inviate a giulio@radiorockfm.com. Sebbene avesse varcato il recinto dell'Enkakuji a Kamakura, Kikuji era ancora indeciso se recarsi o meno alla cerimonia del tè. Era già in ritardo. Kurimoto Chikako lo invitava ad ogni tè che dava nell'appartato padiglione del tempio, ma lui, dopo la morte del padre, non c'era più andato. Considerava quegli inviti niente più che un omaggio formale alla memoria del padre. Questa volta, però, Chikako aveva aggiunto sul biglietto che intendeva presentargli una sua allieva. Leggendo quel post scriptum, Kikuji si era ricordato della voglia sul petto di Chikako. Questo era l'incipit di Mille Gru di Yasunari Kawabata. My heart. do that. We're too old for surprises. Really? I thought you liked surprises. Like how you surprised me with the fact that everything in the museum comes to life at night. That little sweetheart. Prima sono stati gli Ursula Points con Soft Noon da New York e poi Saddlefish da Bologna con Summer Drops. Questo è quanto vi siete già ascoltati in Eclettica quest'oggi. Adesso invece è la volta delle Amina. Già le conoscete, già alcuni di voi le conoscevano prima che trovassero spazio con Cure in Eclettica, avendole viste suonare dal vivo con i Sigur Rós. La strumentazione che le quattro donne islandesi utilizzano è quanto di più particolare si possa immaginare: arpe celtiche, seghe musicali ad arco, glockenspiel, xilofoni, metallofoni, percussioni varie, oppure anche strumenti più consueti come l'armonium, il piano, la tromba, il trombone, la tuba e naturalmente quello che le caratterizza di più, ovvero sia il suono dei loro archi. È uscito un singolo ora, un singolo con un brano che era contenuto appunto in quell'album Cure. Si tratta di Healy, però in una versione diversa, una versione che ha aggiunto At the Top of the World al titolo, e la presenza di Lee Hazlewood, scomparso dopo pochi giorni che aveva registrato questo brano con le Amina. At the top of the world there's an island, a place where the sun never shines, but the people don't care because the snow over there is so bright they nearly go blind. Foot of a mountain where the flowers last hardly a day, but they live off the land and lend each other a hand on this island where night is their day.

Ho ricevuto un mail intitolato "Non mi sei di aiuto". Ciao caro Giulio, non ho più spazio sul mio computer per scaricare il podcast delle nuove puntate di Eclettica. È un dramma. Sto riascoltando in podcast le puntate della scorsa stagione per cercare di eliminarne qualcuna che mi piace meno. Devo dire che non mi sei di grande aiuto, perché in ogni puntata ci sono minimo due canzoni che mi piacciono e quando capita, molto raramente, che ce ne sia solo una, ci sono degli incipit letterari o degli spezzoni di film che non ho il coraggio di eliminare. Infine volevo ringraziarti in quanto la tua voce mi tiene compagnia durante le notti in cui lavoro alla stesura della mia tesi finale. Eclettica è l'unico motivo che mi spinge a sedermi sulla sedia della mia scrivania e studiare. Continua così, Giulio. Questo era Paolo che scriveva. Mi fa piacere ricevere questi vostri mail e poterli condividere anche con gli altri. L'indirizzo è giulio@radiorockfm.com. Vi siete appena ascoltati The Main Drag a rifare gli LCD Sound System ed ora un estratto che ancora non conosciamo da quello che è il nuovo album dei Raveonettes, album intitolato Last, Last, Last. We'll be right back. I'm guessing, and I'm just spitballing here, but looks like that Roman dude got a little cocky and climbed over into the Wild West, and that cowboy knows the Roman dude wants to take over his territory, so he rounded up a posse and put him in the stockade. Wow! Let's all laugh at me, the comedy night guard. No, is the answer. Sarcasm, back at you, with your humour box. I wasn't laughing. Pretending to laugh, if that's what you want, some sort of battle of humour. Do you? No. I don't want a battle of humour. No, you don't, because it'll be a bloodbath. Nothing funny about little Bighorn. No. I find it about as funny as a fanciest. It's not funny, okay? And I will not stand for this type of blatant. If I'm not clear, tell me. Am I clear? Yeah. Yeah.